Le avventure di Tom Sawyer. Questa è la storia di un ragazzo. Il suo nome era Tom Sawyer. Tom viveva con sua zia Polly in una piccola città. Zia Polly era una brava donna. Amava Tom e voleva solo il suo bene. Ma Tom era un bambino birbante. Tom, svegliati! Farai tardi per andare a scuola. Ah, non lo sai? Niente scuola oggi. Il signor Snuggles ha perso suo padre. Oddio, davvero? Povero signor Snuggle. Salve, signor Snuggle. Oh, mi dispiace davvero tanto per suo padre. Possa la sua anima... cosa? Una passeggiata? Oh, questo è fantastico. È un bene per la salute. In realtà dico che tutti noi dobbiamo passeggiare. Ok, signor Snuggle, mi dispiace averla disturbata. Ciao. Cosa è successo? Ah, tu! Come hai potuto dire una bugia del genere? Il padre del signor Snuggle non è morto, sta bene? Beh, non ho mai detto che fosse morto, ho solo detto che l'ha perso. Deve averlo trovato, allora. Ah, cosa farò con questo ragazzo? È una giornata così bella. Chi vuole andare a scuola con un tempo così? Sarebbe così facile se non ci fosse la zia Polly a impedirmi di fare tutto. Lo so, andrò a giocare con Huck e andrò a casa più tardi. Zia Polly non saprà mai che ho saltato la scuola. Oh, Tom Sawyer, dov'è la tua zia Polly? Non avresti dovuto lasciare la casa di tua zia? Chi ti salverà da me adesso? Ryan Reynolds, pensi che mi nasconderei da te? Ehi, cosa cercano da fare voi due? Smettetela di picchiarmi, vi farete male a vicenda. Oh no, la mia uniforme è tutta fangosa. Zia Polly scoprirà che ho saltato la scuola ora. Come faccio? Tranquillamente. Tom, so che sei tu. Non pensare che non ti punirò per aver saltato la scuola e per esserti picchiato con Ryan Reynolds. Sei un ragazzaccio cattivo. Questo weekend vernicerai la recinzione. Niente giochi per te. Ma ha iniziato lui! Non una parola, Tom. Vernicerai la recinzione, è chiaro? Sì, zia Polly. Quando arrivò il weekend, Tom guardò il recinto e rimase scioccato. Cosa? Devo dipingere tutto questo? No! E le mie biglie? E i miei soldatini? Oh, questo non va bene. Ecco perché mi piace la vita di Huck più della mia. Non ha genitori e nessuno che lo punisce. Ora cosa faccio? Ma Tom era un ragazzo intelligente. Gli venne un'idea. La la la la la la. Aspetta, forse è meglio qui. Cosa è successo, Tom? Sei stato punito di nuovo? La la la la la la la. Stiamo parlando con te, Tom. Oh, ciao ragazzi. Scusate, ero impegnato con la mia arte. Perché sei così felice di essere punito? Cosa? Punito? Questa non è una punizione. Quanti ragazzi vedi dipingere? Questa città ha bisogno di colori. Quindi mi sono preso l'incarico di ridecorare questa città. Inizierò da questa recinzione. Tutti voi potete giocare con le vostre biglie. Io sono un artista. Questo lavoro è così divertente. La la la la la la la. Anch'io voglio essere un artista. Fai provare anche a me. Non lo so. Non tutti possono essere artisti. Andiamo, Tom. Siamo tuoi amici, no? Per favore, facci provare. Ma questo è un lavoro molto importante. Dovrei pagarmi per lasciartelo fare. Gli amici di Tom non ci pensarono due volte e gli diedero i loro giocattoli e cioccolatini per poter dipingere il recinto. Sempre più ragazzi vennero a dipingere e presto fu fatto tutto il recinto. Vedi? Tutti vogliono fare qualcosa di significativo. Allora non importa se fanno qualcosa di stupido come dipingere la recinzione. Oh cielo! Hai fatto tutto questo in poche ore? Sì, zia Polly. Non sai quanto duramente ho lavorato su questo recinto. Accidenti, sono così stanco. Quindi posso andare a giocare ora? Sì, immagino. Ah, mi chiedo come fa. Ciao, Huck. Ciao, Phil. Ascoltate, ho trovato un nuovo posto per noi per giocare. Nessuno ci chiederà di andare a scuola o ci chiederà di tornare a casa prima del tramonto. Davvero? Dove si trova? È l'isola dall'altra parte del fiume. Oh wow, ma mia madre non mi permetterà mai di andare. Vorrei non doverle dire ogni cosa ogni volta. Bene, allora non farlo, non diciamolo a nessuno. Siamo abbastanza grandi per stare da soli. I tre amici furono d'accordo e partirono per l'isola su una zattera. Era quello che volevano da sempre. Nessuno che impedisse loro di andare da qualche parte o di fare qualcosa. Giocarono e giocarono per soddisfare i loro cuori. Inizialmente mangiarono tutti i frutti e tutte le verdure crude. Questo è delizioso! Perché li cucinano? È una tale perdita di tempo! Sono d'accordo. Se tutti mangiassero le verdure così come sono, risparmierebbero così tanto tempo! Se solo tutti fossero intelligenti come noi! Ma entro pochi giorni, a giocare e mangiare frutta e piante crude... Oh, mi fa male lo stomaco! Mi sento così irrequieto! Oh, mi gira la testa! Che cosa ci sta succedendo? Neanche io mi sento troppo bene! Vorrei che entrambi i tuoi genitori fossero qui. Loro saprebbero cosa fare. Sono d'accordo. Mi manca zia Polly. Perché nessuno viene a cercarci? Non gli importa? Non ti ricordi? Non l'abbiamo detto a nessuno. Loro non sanno che siamo qui. Oh, sì, ricordo. Perché siamo abbastanza grandi per stare da soli. Quanto siamo stupidi! Hai ragione su questo. Siamo così stupidi. Pensavo sarebbe stato divertente vivere come te, Huck. Non mi sono mai sentito così solo. Qualcuno sarebbe sempre lì per prendersi cura di me al villaggio. Cosa facciamo adesso, ragazzi? Aspettate, non lasciamoci prendere dal panico. Possiamo ancora tornare indietro, giusto? Dico che uno di noi dovrebbe andare a controllare che succede nel villaggio. Non andrò su quella zattera da solo. Che succede se muoio? Dal momento che l'ho suggerito, lo farò io. Andrò a vedere se per caso manchiamo a qualcuno lì. Tom salutò i suoi amici e si avviò verso il villaggio. Quando raggiunse la riva, sentì alcune persone parlare. Mentre si avvicinava, vide zia Polly e la madre di Phil piangere. Oh, ah, ah, ah. Figlio mio, figlio mio! Oh, oh, oh. Figlio mio, figlio mio! Sono passati giorni. Non ha più senso aspettare. Abbiamo inviato una dozzina di navi per cercare quei ragazzi. Ci può essere solo una spiegazione, allora. Potrebbero essere annegati nel fiume. Dobbiamo accettare il destino. Potremmo non trovarli mai più. Dobbiamo organizzare un incontro funebre di preghiera per tutti e tre. È colpa nostra. Avremmo dovuto essere più attenti. Tom, Huck, Phil erano così bravi ragazzi, poverini, erano solo bambini. Oh no, cosa abbiamo fatto? Devo tornare indietro subito. Cosa è successo, Tom? Non manchiamo a nessuno? Sì, Tom, come sta mia madre? Phil, manchi molto a tua madre e anche a zia Polly e a tutto il villaggio. Pensano che siamo annegati. Stanno organizzando un funerale per tutti noi. Hanno mandato una dozzina di navi a cercarci. Oh, mi sento malissimo. Sì, non mi meraviglia che mia madre pensi che io sia responsabile. Li abbiamo feriti. Sì, zia Polly non mi lascerebbe mai così. I nostri genitori sanno che ci prenderemo cura di loro proprio come loro fanno con noi. Ci amano così tanto. Mi sento così in colpa. Anch'io. Anche io. Ragazzi, dobbiamo tornare indietro. Mi manca il villaggio. Oh, immagina cosa succederebbe se capissero cosa abbiamo fatto. Aspetta, non devono sapere. Diremo solo che siamo scivolati nel fiume e che l'acqua ci ha portato su quest'isola e abbiamo costruito una zattera per tornare indietro. Sono i tuoi genitori. Sanno che non sai costruire una zattera. Dobbiamo provare. Meglio che dirgli che siamo stati egoisti e irresponsabili, giusto? Aspetta, domani ci sarà il nostro funerale. Andiamo a sorprenderli tutti. Oh sì, mi piace questo piano. Anche a me piace questo piano. Non sono egoista e responsabile. Il fiume lo è. Grazie a Dio, i fiumi non possono parlare. Possano riposare le loro anime. Dove eravate? Eravamo così preoccupati. Fiume. Fiume ha fatto una zattera e l'isola è venuta da noi e abbiamo corso e... Cosa? Smettila di parlare, Phil! Siamo tutti molto dispiaciuti. Quello che Phil sta cercando di dire è... Per favore, non odiateci. Oh, ragazzi miei, i genitori non odiano i loro figli. Ciò che conta è che siate a casa e al sicuro. Sì, Hawk, d'ora in poi vivrai con me e Tom. Anche tu sei mio figlio da oggi. Davvero? Oh, ma se vuoi stare da solo... No, mai! So quanto sono importanti i genitori! Ho vissuto tutta la mia vita senza di loro! È vero, non potrei vivere da solo neanche per pochi giorni! Sappiamo quanto siano importanti i genitori! Siamo tutti molto dispiaciuti! Vi amiamo molto! Anche noi vi amiamo!